storia della filosofia alla mano, che un filosofo sia un grande filosofo, che sia un Aristotele, un Berkeley, un Hume, un Kant, uno Schopenhauer, lo si può arguire dal fatto che la sua opera inizi dicendo che tutti i colleghi che l'hanno preceduto si sono irrimediabilmente sbagliati. Ciò da tempo avrebbe dovuto far sorgere alcuni sospetti nei confronti della filosofia medesima, ma così invece per lo più non è stato. Licei e università sono ancora oggi infestati da questa curiosa disciplina che nel definirsi perennis garantisce la propria serenità evadendo ogni verifica. L'allenatore di calcio che subentra al collega appena esonerato perché perdeva troppe partite, si attiene ad un modello narrativo che raramente si discosta da questo. Allora, innanzitutto dichiara che non è sua abitudine sindacare sull'operato di un collega e che dunque non lo farà neppure nella presente occasione. Tuttavia, non può esimersi da rilevare come la condizione atletica della squadra sia così, che alcuni giocatori sono stati impiegati fuori ruolo, che certi schemi di gioco devono essere cambiati per assecondare le caratteristiche dei giocatori, che il morale è stranamente a terra e che c'è bisogno di tutto il calore del pubblico, definito volentieri in questa fase narrativa come il dodicesimo giocatore in campo, no? Per tirarsi fuori dai guai e tornare a vincere. Dal filosofo all'allenatore il passo è meno ampio di quel che può sembrare. Entrambi vincono o perdono partite il cui grado di intelligibilità non è sempre il massimo e che spesso si svolgono prescindendo del tutto dai loro sforzi di razionalizzazione. Entrambi poi di principio, per vocazione connaturata, si lamentano di quanto abbia fatto chi li ha preceduti. Senza le sue malefatte il loro avvento sarebbe privo di senso. Un atteggiamento del genere è molto diffuso e in questi anni dove l'insicurezza regna sovrana, dove si moltiplicano le disponibilità a gesti estremi che garantiscano un futuro, questo atteggiamento prende piede ovunque l'essere umano si provi a giocare quel gioco d'azzardo che è diventata la convivenza sociale, anche nei luoghi più impensabili. Il giornalino ciclostilato dell'oratorio, adattandosi agli stilemi più beceri delle comunicazioni di massa, pubblica un'intervista con Don Silvano, il sacerdote giovane appena arrivato nella veste di aiutante del parroco. Rispondendo ad una domanda sull'importanza dei suoi incarichi presso l'università, il giovane prete ritiene opportuno precisare che la distinzione fra i lavori importanti e i lavori meno importanti non gli piace, che ogni lavoro e quindi anche ogni modalità di ministero all'interno della Chiesa è utile, che quello che conta è lo spirito giusto, cioè un affetto assoluto per il Signore Gesù, e che tutto il resto è relativo, compreso quello che si è chiamati a fare. Modestia e remissività, insomma, in quello spirito francescano che nel conculcare la protervia disegna l'itinerario meno tortuoso verso il Padre. Tuttavia, dopo aver risposto a domande allucinanti, dove per esempio si parlava di caduta dei valori cristiani al minimo storico, come fossero un titolo del listino di borsa, a Don Silvano, alla conclusione, viene rivolta una strana domanda. Gli si chiede: cosa cambierebbe della messa delle 10 della domenica? La domanda è strana, sia per il contenuto. Perché proprio la messa delle 10 e non quella di mezzogiorno? Perché dovrebbe essere cambiata? E poi è strana per il fatto stesso di essere posta. Più che di incenso aleggia subito nell'aria odor di zolfo. E infatti Don Silvano risponde, la domanda è un po' a tradimento, visto che qualcuno ti ha rivelato che non sempre sono leggero nei giudizi sulla celebrazione della messa delle 10. Ma, rispondo volentieri. Cambiano allora gli scenari e dai fioretti celestiali si passa ad una cenetta in casa Borgia. Anzitutto, prosegue il giovane prete, dico che mi piacerebbe celebrarla un po' più spesso rispetto a quanto mi capita di fare ora, stilettata nel costato del parroco o di chi ne fa le veci. Quanto alle cose da cambiare, sarebbero molte, ma al momento di snocciolarle tutte una per una preferisce prendersela con chi vi partecipa a questa messa, che a suo parere sarebbe troppo svagato e distratto, concludendo con la citazione a sostegno di un grande filosofo danese dell'Ottocento, non meglio specificato ma facilmente ipotizzabile, in Soren Kierkegaard, per il quale preti e appassionati di malattie psicosomatiche vanno matti, che avrebbe minacciosamente e improbabilmente affermato che la fede cristiana non è una faccenda per smidollati. Discorsi a nuora perché suocera intenda, secondo i più efferati dettami della comunicazione trasversale e della contrattazione sociale per la definizione dei rapporti di forza. Non c'è pace su questa terra, insomma. Nessuno riesce a cooperare con l'altro, a nessuno frega niente di decidere in comune i criteri per giudicare dell'operato proprio e altrui. Tutto va bene purché serva agli scopi di chi lo agita. Non ci sono oasi felici. Meno che mai le accademie e le chiese, dove coloro che entrano sono chiamati a spogliarsi dei pregiudizi e dei vizi per raggiungere la saggezza e la bontà. E meno che mai negli spogliatoi, dove gli atleti sono chiamati a spogliarsi degli abiti civili per indossare quelle uniformi in virtù delle quali ricevere quell'ultima forma della grazia, che sarebbe la lealtà sportiva.